Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Prima parte di Eclettica si è chiusa con Stormy High, un estratto dall'ultimo album dei Black Mountain, mentre la seconda si è aperta con OK, questo è il nome della formazione che ci siamo appena ascoltati con il pezzo dal titolo Mai. Tutto questo succede fra le 19 e le 20 come succede tutti i giorni, non solo il lunedì sulle frequenze di Rock FM in compagnia di Giulio Caperdoni. E il tutto è anche disponibile in podcasting, ne trovate i dettagli su myspace.com/eclettica oltre che sul sito ufficiale di Rock FM. Ritorno a parlare degli OK che abbiamo appena terminato di ascoltare, in quanto settimana scorsa, dopo che li ho trasmessi per la prima volta, ho ricevuto un mail da Michelangelo, da Bari. Settimana scorsa, presentando gli OK, vi ho raccontato la storia del loro cantante che soffre del morbo di Crohn e quindi è costretto in pratica a vivere nella sua camera e lì a registrare con la sua band le canzoni del disco d'esordio. Il mail che ho ricevuto è il seguente, è un mail che racconta una storia personale. Ciao Giulio, grazie allo streaming ascolto Rock FM tutti i giorni. Vi faccio i miei complimenti perché siete unici e insostituibili. 10 minuti fa hai passato un brano di un gruppo il cui cantante è affetto dal morbo di Crohn. Potresti scrivermi il nome del gruppo? Sai, anch'io ho questa malattia e sono curioso di ascoltare il loro CD. Allora io ho riscritto a Michelangelo chiedendogli qualche ulteriore informazione, ero curioso di sapere che cosa fosse il morbo di Crohn. E lui mi ha subito risposto. È un'infiammazione cronica dell'intestino. Questo comporta diarrea, una rottura di palle che ti fa andare in bagno tante volte al giorno. Conseguenze? Hai una vita di merda, con il culo e l'intestino che ti fanno sempre male. Io ho questa malattia da un anno e da 15 sono malato di spondilite anchilosante. Ti posso assicurare che è difficile da conviverci. Ti abbraccio. complimenti per Eclettica, rock and roll. E a quel punto allora io gli ho chiesto se potevo parlarne in onda e dire che c'era un ascoltatore di Eclettica che ne soffriva. Solo se per lui fosse stato positivo sentire la vicinanza di chi in quel momento avrebbe ascoltato le sue parole. E Michelangelo mi ha risposto con un grande sorriso ed è questo il motivo per cui vi ho raccontato tutto questo. Ritorniamo alla musica, ritorniamo ad un artista di cui io stavo aspettando proprio il ritorno. Kelly Stoltz, che ritorna dopo il 2006 con un album per Sub Pop come il precedente. Questo nuovo si intitola Circular Sounds ed è un album in cui viene confermato il suo stile molto orientato agli anni 60, non solo dal punto di vista musicale, ma anche dalla confezione, dal packaging, dal tipo di cartone, dalla grafica, da tutto. Kelly Stoltz, che ci ascoltiamo con la traccia numero 9 delle 14 totali. Si tratta di Your Reverie. Is that clear? Yeah, I mean, I guess, I guess. Stop babbling, boy! Yes or no? Yes! Good! Let's ride! Come on, like gangbusters, laying it thick. Laboriously stacked, lost in the sticks. It's warm for a witch trial. You agree, cold are the hands that would ever touch me. You got the energy of a classic creep, with sex vibe for miles and shark eyes asleep. No intuition, no need to sleuth. Poor is the man who would sully my youth. song undeveloped beyond the first bar. For all of your hassle, what did you win? Woe is the man with the Cheshire Cat grin. La strada si era fatta tortuosa e pensavo di essere ormai vicino al passo di Amagi, quando una pioggia torrenziale che tingeva di bianco i boschi di cipressi risalendo i fianchi della montagna, cominciò a incalzarmi a velocità spaventosa. Avevo 20 anni, berretto dell'uniforme degli studenti liceali in testa, cartella in spalla, indossavo un kimono blu scuro e uno a kama. Erano passati 4 giorni da quando tutto solo mi ero messo in viaggio per Izu. Mi ero fermato una notte alle terme di Sugenji, 2 a quelle di Yugashima, e ora con i miei alti e pesanti geta ai piedi stavo salendo verso il passo di Amagi. Questo era l'incipit della danzatrice di Izu, di Yasunari Kawabata. Settimana scorsa ho cercato di stimolarvi, di stimolare la vostra interattività, e direi che ci sono riuscito perché avete cominciato a scrivere veramente in tanti, quindi ho a disposizione le vostre parole per rendere più viva, eclettica, renderla più vera. Le parole come per esempio quelle di Fabio, tassista di Milano, che mi dice che eclettica è l'ora più bella del suo turno di lavoro e si firma Zulu 7. Se prendete il taxi a Milano e riconoscete Zulu 7 scritto sulla portiera, salutatelo da parte mia. In Eclettica vi siete appena ascoltati Singapore Sling dall'Islanda. Non vi sembri strano sentire questi suoni arrivare da quell'isola con Life is Killing My Rock and Roll? E prima ancora invece ci eravamo ascoltati Baltimore da parte di Stephen Malkmus and the Jigs. Ora Eclettica che rende onore al suo nome con un artista che arriva dai Pirenei, che ora fa di base a Barcellona, si chiama El Guincho. È uscito con un album autoprodotto per discoteca Oceano, album intitolato Alegranza, dal quale ci ascoltiamo Antillas. Antillas.